questo spettacolo ha una lunga storia, perché il testo mette in scena è il frutto di una serie di laboratori sul pregiudizio che abbiamo tenuto in alcune scuole superiori di Bologna, all'Istituto Penale Minorile di Pontremoli, all'Istituto Penale Minorile di Bologna. Quello che va a debuttare oggi all'Arena del Sole è, diciamo, la versione definitiva, quindi, di un lungo lavoro che si è incentrato, come il titolo afferma, sul pregiudizio spiegato ad una persona anziana. E il pregiudizio è stato nelle sue evoluzioni. Il pregiudizio ha terreno fertile laddove i luoghi comuni imperano, le frasi fatte vengono usate senza pensiero, in cui il formarsi del pregiudizio avviene per un atteggiamento nei confronti di quanto ci circonda, improntato su chiusure, su classificazioni. Ecco, quindi un tema complesso nei suoi meccanismi, però viene trattato in maniera molto leggera, è un divertissement, si prende in gioco, si mette in paradosso il pregiudizio. E questo è stato il lavoro con i ragazzi. Con i ragazzi si è cercato quindi di individuare quali sono le forme del pregiudizio in cui viviamo oggi continuamente, e nello stesso tempo come mettere della sabbia nei meccanismi del pregiudizio, per incrinare il pregiudizio, per fare in modo di cominciare a essere consapevoli che quel che si dice tante volte non è così come si pensa. E nella trasposizione scenica questo come viene, come dire, allestito? E questo si realizza in una baracca di un teatro in cui c'è un capocomico e in cui si mette in scena una sorta di spettacolo che riecheggia chiaramente Petrushka di Stravinsky, in cui gli attori sono attori danzatori marionette che in un vortice di cambi di scena alternano le scene in cui, come dire, si tratta un tema particolare. Si parte dai pregiudizi legati alle donne attraverso i proverbi della cosiddetta saggezza popolare. I proverbi napoletani offrono tantissime possibilità, quindi dai proverbi legati alle donne, quindi al pregiudizio che si è formato, si è calcificato intorno alla figura femminile, sino a tante altre forme di pregiudizio. Questo in un vorticoso cambio di scene continuo in cui ci si diverte a prendere in giro il pregiudizio. Com'è stato per dei ragazzi, immagino adolescenti o giovani adulti, insomma, lavorare su un tema così importante che spesso li vede vittime di pregiudizio? E certo, a volte sono vittime di pregiudizio e loro stessi, come dire, essendo state vittime, poi vanno a praticare i pregiudizi. E quindi con loro si è fatto appello a quello che sono state le loro esperienze dirette, ma non per mettere in scena le loro biografie, i loro fatti accaduti, ma cercare di cogliere, di prendere spunto da quanto hanno vissuto per poterlo trasformare soprattutto in paradossi. E in questo si sono sempre divertiti, si sono trovati a fare quelle che loro dicevano delle scempiaggini. Allora, fare gli stupidi, volendo fare gli stupidi, è cosa estremamente difficile.